districarsi, anche se tutto sommato ormai le nostre scadenze sono state abbastanza limate, però diciamo gli appuntamenti col fisco per i contribuenti sono più di uno, infatti, e noi cerchiamo di dare una mano. Anche perché non esattamente sempre tutti quanti siamo così attenti con le scadenze così fiscali, è proprio il caso anche di utilizzare questo termine, questo aggettivo. Le informazioni contenute nell'annuario, questa è una precisazione che magari facciamo subito, dopodiché magari raccontiamo anche come è composto, in quali parti è suddiviso. Le informazioni, dicevo, sono aggiornate praticamente la seconda metà di maggio, per cui le novità troveranno spazio nella seconda edizione dell'annuario, dottor Esposito, che sarà invece pubblicata e messa online nella seconda parte dell'anno, perché chiaramente non fate in tempo ad inserire tutte le novità. C'è stata la recente manovra di aggiustamento dei conti che per esempio ha introdotto qualche piccola novità che teoricamente sarebbe dovuta finire anche all'interno dell'annuario, però chiaramente con i tempi è stato un po' più complicato. Certo, per quanto riguarda la stampa del volume, è chiaro che in qualche maniera noi non possiamo, dobbiamo mettere un punto, diciamo, un giorno e decidere appunto di andare in stampa. Quello che dice lei è vero, tutte le novità che sono già appunto presenti nella normativa italiana, ma che probabilmente saranno anche inserite nel corso dell'anno, troveranno spazio nella seconda parte del volume che appunto pubblicheremo, credo, verso settembre-ottobre, poi vedremo i tempi che ci saranno. Infatti. Però volevo anche rassicurare, anzi consigliare a tutti gli ascoltatori di verificare quasi quotidianamente la pubblicazione che abbiamo appunto online, perché quella invece verrà aggiornata nel corso del tempo, quindi sarà sempre in linea con tutta la normativa. Chi poi invece è affezionato chiaramente a quella cartacea, la seconda parte dell'anno troverà queste novità insieme ad altre informazioni che potremo inserire in quel volume. Dottor Esposito, io immagino che sia anche abbastanza difficile monitorare l'utente che scarica questa guida, no? Ma vi risulta che ci siano anche proprio singoli contribuenti che magari si vogliono togliere la curiosità di avere il quadro chiaro sin dall'inizio dell'anno di tutte le scadenze fiscali che lo interesseranno appunto nel corso dei mesi, oppure sono solo i professionisti? Insomma, visto che è scritto in maniera molto semplice, quindi al contribuente è destinato, ne fanno largo uso i contribuenti italiani di questo strumento? L'annuario del contribuente si chiama così non a caso, è dedicato principalmente ai contribuenti. Come ha detto lei, il linguaggio che cerchiamo di utilizzare è un linguaggio molto semplice, cerchiamo anche con esempi, tabelle e altri strumenti di essere il più chiari possibile e evitare che qualcuno possa incorrere in un errore, anzi serve proprio a questo. Il professionista probabilmente ci segue, abbiamo visto che lo prende negli uffici, però sicuramente ha altri strumenti per la sua attività. Abbiamo un monitoraggio, diciamo, per quello che riguarda online, ma quello che ci conforta di essere, diciamo, sulla buona strada è sicuramente la richiesta che abbiamo presso i nostri uffici del volume, anche quando purtroppo questo è esaurito. Spesso ci troviamo a dover soddisfare delle piccole richieste di persone anche anziane che non sono riuscite, non hanno trovato il volume in qualche ufficio, glielo mandiamo anche a casa, è chiaro. Benissimo. Sono dei casi particolari, però. Una piccola precisazione volevo fare, perché stamattina io, prima di andare in onda, sono andata sul sito dell'Agenzia delle Entrate per verificare dove fosse praticamente situata la guida per poterla scaricare, l'annuario del contribuente. Non ho avuto una ricerca immediata e facile, dottor Esposito. L'ho trovato praticamente in un link, in una colonna a sinistra, sotto la voce, adesso non mi ricordo bene se pubblicazioni... Guide fiscali, esatto, quindi magari precisiamolo. Mettiamola bella in home page, non è possibile? Sì, è in home page. Già adesso al secondo posto del nostro elenco, annuario del contribuente 2010, è scaricabile da lì. Eventualmente, chiaramente ora le notizie poi si accavaleranno e saremo costretti poi a toglierlo dall'home page. Nella colonna di sinistra, come diceva lei, sotto la sezione documenti ci sono guide fiscali, e lì oltre all'annuario possono trovare anche delle piccole guide tematiche che sono molto precise su alcuni temi chiaramente di grande interesse. Lei capirà, il sito dell'Agenzia delle Entrate contiene più di 40.000 documenti. Sì. Tutti in home page non ci possono stare. No, infatti, però, visto che questa è la novità di questo periodo, certamente, magari almeno per qualche giorno. Sicuramente. Il volume, l'annuario, è diviso in sei parti. Abbiamo le informazioni generali e poi che cosa? Poi abbiamo chiaramente la dichiarazione delle persone fisiche, perché siamo in questo periodo, l'appuntamento della dichiarazione fisica, della dichiarazione dei redditi è sicuramente l'appuntamento più importante che coinvolge più contribuenti. Chiaramente a seguire i versamenti o eventualmente i rimborsi che un contribuente deve richiedere, e poi forse la parte più interessante, perché sono quei momenti di crisi in cui il contribuente non sa cosa fare, cioè quando o arriva una cartella o si è fatto un errore e non si sa a chi rivolgersi, né quali documenti prendere né quali modelli utilizzare. Abbiamo poi una parte sulle imposte sugli immobili e sulle successioni, e poi appunto come evitare il contenzioso nel caso poi si vada ancora avanti nell'errore. Chiaramente poi l'amministrazione finanziaria tende a chiedere ragione di questo errore, e lì ci sono una serie di strumenti che il contribuente può usare e deve usare. Benissimo. Questi sono gli argomenti più importanti, più caldi e più interessanti per il contribuente. E poi ci sono tutte le novità di quest'anno, la PEC, la tessera sanitaria che dura più a lungo, l'esordio di Civis, il sistema di assistenza telematica delle entrate. Perfetto. Dottor Esposito, grazie, buon lavoro. Ricordiamo i contatti dell'Agenzia delle Entrate per chi volesse mettersi in contatto con voi, perché avete anche un numero disponibile appunto per gli utenti, per i contribuenti, Il nostro call center è 848-800-444, rispondiamo a tutti i quesiti tecnici e fiscali, e siamo pronti a rispondervi, a dare soddisfazione a qualsiasi problema. E il sito appunto per scaricare la guida è www.agenziaentrate.gov.it. Agenziaentrate.it. Perché? Che cosa ho detto? Entrate. Agenzia Entrate. Non ha detto entrate, ha detto www.entrate.it. Vabbè. Agenzia Entrate tutto attaccato. Mi sembrava di averlo detto, non importa, comunque ha fatto bene a precisarlo. Grazie, buona giornata. Grazie, buon grazie lavoro. Voi, arrivederci a tutti. Alessandro, oggi fondi pensione, dopo la relazione annuale del presidente della Covip di 2 giorni fa, monitoriamo un po' gli strumenti di previdenza complementare. Alle 12 a Salvadanaio. Ciao. Ciao a te. E allora nel nostro sondaggio parliamo della vicenda Gaspare Spatuzza, vale a dire l'uomo di mafia che poi dopo tanti anni si è pentito e al quale non è stata concessa la protezione, o meglio l'ammissione al programma di protezione per i collaboratori di giustizia. Vi chiediamo, secondo voi, una scelta politica? Sta suscitando molte polemiche, ne parleremo tra poco. Dovete votare su radio24.it oppure chiamarci 800 24 00 24. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Parliamo oggi nel nostro sondaggio delle polemiche politiche che stanno scaturendo dalla decisione della commissione del Ministero degli Interni di non ammettere al programma di protezione testimoni, o meglio collaboratori di giustizia, Gaspare Spatuzza. Questo è il sondaggio nostro di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Chi è Gaspare Spatuzza? In estrema sintesi, Gaspare Spatuzza è stato uno spietato killer della mafia, vari ergastoli da scontare, quello più famoso forse per l'uccisione di Don Pino Puglisi. Poi a un certo punto della sua vita ha deciso di collaborare con i magistrati. 3 procure lo ritengono attendibile, quando per esempio ha riscritto anche o sta cercando di riscrivere la strage di Via D'Amelio, l'uccisione di Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, autoaccusandosi, dicendo sono io coinvolto in quella strage in qualche modo, non le persone che credevate coinvolte fino ad oggi. Ripeto, è considerato attendibile. Poi lo scorso dicembre, in un'udienza del processo a carico del senatore Dell'Utri, Spatuzza ha anche fatto il nome del presidente del Consiglio Berlusconi, cioè ha spiegato che secondo quello che risulta lui ci sono stati presunti contatti del suo capomafia da allora, vale a dire i fratelli Graviano, con Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, parlando insomma di quella possibile referenza politica e collegamento politico tra i capomafia di allora e appunto Dell'Utri e Berlusconi. Non è stato ammesso al programma testimoni, una decisione che è stata presa dalla commissione del Ministero degli Interni, perché il sottosegretario Mantovano ha spiegato perché la legge consente 180 giorni per fare a chi si vuole pentire, fare il collaboratore di giustizia, a rendere dichiarazioni. Questi 180 giorni non sono stati rispettati, cioè Gaspare Spatuzza ci ha messo più tempo. Ovviamente ci sono state molte accuse politiche, per esempio sentite cosa ha detto Roberto Saviano ieri al TG3 riguardo a questa decisione. Spatuzza ovviamente è un ex mafioso, un collaboratore di giustizia, e quello che bisogna chiedere allo Stato è di permettergli di raccontare tutto quello che sa, ovviamente alle condizioni che decide lo Stato, poi saranno i magistrati a verificare segmento per segmento. In questo modo invece è come se si volesse ricattarlo, cioè basta, è tutto finito, nessuno ti proteggerà indipendentemente da quello che andrai a dire, perché quello che hai detto l'hai detto male o perché quello che hai detto l'hai detto troppo lentamente. È anche una sorta di monito a tutti gli affiliati a pensarci prima di collaborare, come dire, lo Stato potrebbe mollarli. Ieri Walter Veltroni ha detto: questo, tutto ciò è sconcertante, sembra dettato da ragioni politiche. È quello che vi chiediamo anche noi, secondo voi è dettato da ragioni politiche? Ne vogliamo discutere con l'eurodeputato dell'Italia dei Valori Luigi De Magistris. Buongiorno, ben ritrovato De Magistris. Buongiorno a lei, grazie. Saluto anche Gianluigi Nuzzi, cronista di Libero. Buongiorno Nuzzi. Buongiorno a voi, buongiorno. Allora, la vicenda Nuzzi, perché la difesa di Mantovano, la difesa o meglio la spiegazione di Mantovano è molto tecnica, cioè ci sono questi 180 giorni, poi c'è una commissione che lui presiede, ma lui è l'unico politico, ci sono anche due magistrati, ci sono altri ufficiali delle forze dell'ordine. Ci si può difendere così dall'accusa che molti politici hanno fatto, dire ma come? Anche Saviano dice sembra un ricatto quello messo in atto dal Viminale. Ma non è affatto un ricatto, è una regola di democrazia. Ci sono misura adottata dalla Commissione Centrale di Protezione del Ministero degli Interni non entra nella valutazione tecnica delle parole di Spatuzza, non valuta la credibilità. L'attendibilità di Spatuzza la valuteranno ieri, oggi e domani i giudici, i magistrati, le procure, quindi i tribunali giudicanti si spera. Quindi non è un provvedimento che impedisce a Spatuzza di parlare, è un provvedimento amministrativo che condizione necessaria visto l'impianto della legge. L'impianto della legge dice semplicemente che tu hai 6 mesi, 180 giorni per raccontare quello che sai, per raccontare cose, per fissare in un interrogatorio iniziale tutti gli argomenti che vuoi affrontare. In 6 mesi credo che la memoria possa tornare in maniera limpida. Qui abbiamo uno Spatuzza che nei primi 6 mesi di collaborazione negava di conoscere livelli politici delle vicende che raccontava. Dopodiché Spatuzza non ci ha impiegato 180 giorni, ce ne ha impiegati 545. Ora io capisco che a qualcuno può far comodo avere in mano uno Spatuzza per mettere nelle mani di Berlusconi il timer delle stragi. Va tutto bene, possiamo pensare di essere amministrati politicamente da dei mafiosi con la coppola, la lupara che trafficano in droga. Va tutto bene per buttarci addosso e per dequalificare e parlare male del nostro paese. Però ci sono delle regole, come per Spatuzza valgono per gli altri. Peccato che qualcuno se ne accorga solo quando c'è l'accusatore di Berlusconi. Cioè questi pentiti a orologeria, insomma. Pentiti a orologeria, c'è una norma, mi perdoni, dice 180 giorni per raccontare, questo l'abbiamo è una norma democratica di tutela delle persone, perché sennò veniva fuori il pentito che aveva sentito a Radio Radicale un processo di mafia e dice anch'io mi ricordo questo e per avere altre agevolazioni e soldi dello Stato. Adesso si sono fissati da oggi, da 4-5 anni questi paletti e tutti li rispettano, non capisco perché per Spatuzza non devono essere rispettati. Tra l'altro ieri in un'intervista al Fatto il sottosegretario Mantovano ha detto contro alla domanda di Marco Lillo si rende conto che questa decisione può sembrare una ritorsione contro il pentito che ha accusato il suo capo, cioè Berlusconi, ha detto contro chi sosterrà questa tesi darò mandato agli avvocati per fare causa. Allora, onorevole De Magistris, lei ha parlato per esempio esplicitamente di ricatto, insomma un po' come ha fatto anche Saviano. Il fatto dei 180 giorni non rispettati mi sembra che sia un dato accertato un po' da tutti, eh? Cioè, proprio così, sono due dati. Io dico che qualcosa di ancora più grave del ricatto, perché un ricatto nei confronti di Spatuzza e un'intimidazione nei confronti di altri collaboratori che volessero affrontare lo snodo dei rapporti tra mafia e politica e mafia e istituzioni. Attenzione che se parlate di questo non avete il programma di protezione. Come si fa a dire, come dice Nuzzi, Spatuzza potrà continuare comunque a collaborare se non lo proteggi, ma sappiamo che cosa significa per un collaboratore o per un testimone che ha disvelato fatti interni all'associazione come Cosa Nostra non essere protetto. E poi vorrei dire un'altra cosa: la richiesta di programma era stata avanzata da parte di 3 procure, sulla cui professionalità credo nessuno può discutere, Palermo, Caltanissetta e Firenze, e dalla Procura Nazionale Antimafia. Spatuzza ha fatto le dichiarazioni nei 180 giorni, ma questo non toglie che se qualche giudice nel dibattimento gli fa determinate domande, con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, lui deve rispondere, non può mentire né può essere reticente. Però questo è vero, cioè le procure tra l'altro hanno detto non è mai, è assolutamente attendibile, non è mai successo di negare un programma di protezione perché qualcuno magari ha sforato i giorni, vista la gravità delle cose che dice l'attendibilità. Però le chiedo, De Magistris, Mantovano dice: io sono il politico che presiede questa commissione, ma ci sono anche 2 magistrati in questa commissione, 2 magistrati, 5 membri delle forze di polizia, sono tutte di identità segrete per la loro sicurezza, quindi non si possono sapere i nomi. Quindi io sono il presidente, ma ci sono 2 magistrati e 5 membri delle forze dell'ordine che hanno sottoscritto questa decisione. Insomma, ma l'influenza, che questo sia un organo tecnico ma soprattutto politico, perché sta nel Ministero dell'Interno, penso nessuno può mettere in discussione, tant'è che è diretto dal sottosegretario Mantovano, il quale i telespettatori, gli ascoltatori più attenti ricorderanno, contrariamente a quello che ha detto Nuzzi, che non si entrava nel merito, più volte Mantovano ha rilasciato recentemente interviste dove si soffermava sull'attendibilità o meno di Spatuzza e sul fatto che la procura di Caltanissetta alcuni anni or sono aveva già archiviato le accuse nei confronti di Berlusconi, dell'Utri ed altri. Quindi qua si è entrato nel merito, l'esecutivo è entrato nell'autonomia e nell'indipendenza della magistratura, è un precedente gravissimo, guarda caso, nei confronti di un collaboratore che affronta il tema dei rapporti mafia a politica, e guarda caso Mantovano, il sottosegretario dell'interno del governo Berlusconi, e Berlusconi è uno dei soggetti direttamente o indirettamente molto interessati in questa vicenda. Allora però Nuzzi, l'obiezione che si fa, detto che Gaspare Spatuzza tra l'altro ha scritto una lettera, la lettera inizia così: sono Gaspare Spatuzza, da mezzi di informazione TV ho appreso la notizia della mia non ammissione al programma di protezione, certamente mi amareggia ma sono molto fiducioso delle istituzioni per cui non ho motivo di scoraggiarmi. Questo è l'inizio, poi parla anche ai suoi familiari, dice anche qualcosa di più. Quello che molti dicono, per non alimentare le scelte politiche, è vero che le regole sono regole, qualcuno obietta Nuzzi che in un paese in cui le regole non è che si rispettano moltissime, questa volta è stata rispettata in maniera precisissima, ma proprio per non dare adito a polemiche strumentali eccetera, non era il caso di dire la diamo la protezione, proprio per non, anche se non ha rispettato i giorni, così non ci saranno nessun tipo di polemiche. Beh, ma questo mi sembra, se noi dovessimo avere degli organi che decidono, le loro, insomma, che prendono delle decisioni in funzione delle polemiche che possono provocare, sarebbero degli organi molto deboli. Mi permetta però un paio di osservazioni, perché credo che i nostri ascoltatori gli strumenti tecnici, i dati di fatto bisogna consegnarli. Allora, non è vero quello che De Magistris dice, e mi stupisce che un ex magistrato non conosca la normativa. Sa benissimo De Magistris che le persone per le quali c'è stata richiesta di aderire al servizio di protezione, di diventare collaboratore di giustizia, e si vedono cassata la richiesta, De Magistris sa benissimo che questi non diventano detenuti comuni, ma hanno un percorso a tutela molto particolare, con delle garanzie di sicurezza superiori e di molto rispetto a tutti gli altri detenuti. Quindi non è vero che Spatuzza è abbandonato a se stesso, non è vero che nessuno è un monito a tutti gli altri, un memento in stile nazifascista, perché mi perdoni, ma basta, se c'è un mafioso, un terrorista, chiunque che vuole andare a collaborare con la giustizia, c'è una legge. In 180 giorni racconta i fatti più salienti. Qui abbiamo uno Spatuzza che in quei 180 giorni i fatti più salienti non li ha raccontati, questo è il discorso. Poi Mantovano può, come De Magistris, può parlare da ex magistrato, può parlare da presidente della Commissione Centrale dei Servizi di Protezione, può parlare, credo che gli sia ancora consentito, mi scoccio a difenderlo perché io non voglio difendere nessuno, però penso che possa parlare da politico, da esponente anche politico. Da politico, quindi le valutazioni su Spatuzza che riguardano il leader del governo di Mantovano, penso che Mantovano abbia qualche diritto ancora. Allora, devo fermarmi per dare le notizie sul traffico e poi rientriamo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. bianco o nero? Allora, la decisione del Ministero degli Interni di non ammettere al programma di protezione il pentito di mafia Gaspare Spatuzza, che appunto ha scritto questa lettera dopo aver detto confido nelle istituzioni, e certo ha anche detto però la criminalità organizzata certamente sta gioendo e magari brindando a questa vittoria, e poi ancora chiedo più salvaguardia per la mia vita perché sono consapevole che il mio nemico è molto abile a infiltrarsi nelle istituzioni come nel passato ha già fatto. Sentiamo due ascoltatori, Pasquale da Catanzaro, buongiorno. Buongiorno, io sono assolutamente d'accordo che sia una scelta politica, in più dico che è una scelta imposta dal Presidente del Consiglio e mi dispiace per il deputato che è costretto a difendere l'indifendibile. Io mi domando se non provano... Non ho capito, allora, intanto deputato chi è? No, Gianluigi Nuzio è un cronista di Libero, se sì. Secondo lei c'è Berlusconi. Berlusconi ha deciso questo. Anche questo. No, ma più che altro io non capisco come non abbiano vergogna. Nel senso che si parla di norme democratiche dei 180 giorni, ma sono stati capaci di modificare una norma democratica sul falso in bilancio. Cos'è? Quella lì non era una cosa però grave? Lei, Pasquale, cioè, però io capisco che mettere tutto nel calderone in Italia è una bella cosa. Parliamo sul punto. Adesso della legge sul falso in bilancio, ci scusi, non ci interessa niente. Non che non sia importante, ma non è il punto. Lei dice è una scelta imposta da Berlusconi. Non ho... Cioè, voglio dire, lei ha degli elementi per dire questa cosa oppure è una sua opinione, immagino così. Berlusconi, certo. Berlusconi ha telefonato a Mantovano, gli ha detto fate così. No, semplicemente è incredibile come non si riesca a capire, credo che forse il 50% degli italiani poi vedrà un attimino cosa dirà il sondaggio, ma tutti quanti pensano che se... Per ora guardi il 69% dice che è una scelta politica, 69%. Perfetto, allora... Sì. Se questo signore accusa Berlusconi e i suoi amici di essere alleato oppure di avere contatti con la mafia e automaticamente gli si impedisce di avere la protezione, se permette non è che... Guardi che non è, allora effettivamente cioè, no, su questo bisogna dire, non è che Spatuzza sia, cosa accade a Spatuzza? Sentiamo cosa dice Mantovano. Cosa accade a Spatuzza? Spatuzza resta dov'è, non cambia il regime di sicurezza fino a quando sta in carcere, sarà sottoposto a una forma di tutela personale proporzionata al rischio che corre per la scelta di collaborare. Se e quando uscirà dal circuito penitenziario sarà sottoposto al regime di protezione adeguato al rischio che corre. Perderà invece, ecco cosa perderà, cioè l'atto amministrativo, l'assegno di mantenimento per sé e per i familiari, la locazione dell'appartamento pagata, le misure di carattere assistenziale. De Magistris, su questo, cioè possiamo, Nuzzi dice, non è che adesso Spatuzza viene come è stato definito da Di Pietro, un morto che cammina, che viene buttato in mezzo ai mafiosi, questo almeno possiamo dirlo? Non è così, e Nuzzi, da giornalista che dovrebbe essere attento, leggendo la norma sa benissimo che il programma di protezione serve non solo a garantire sicurezza personale a Spatuzza, ma sicurezza personale ai familiari, che credo sia una cosa molto importante che dovrebbe interessare anche Nuzzi come tutti i cittadini italiani, serve anche a garantire l'assistenza economica e non solo economica. Immaginiamoci adesso i familiari di Spatuzza che invece senza protezione dovranno trovarsi un lavoro con la loro identità, perché il programma di protezione consente anche certo, il cambio di identità e quant'altro, quindi non ci prendiamo in giro. Questa è una norma che fu voluta proprio da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per consentire la sconfitta delle mafie e soprattutto il contrasto alla mafia che diventa istituzione, che diventa Stato, che entra nell'economia e nella finanza. È inutile che giriamo attorno. Ha sentito l'ascoltatore di Catanzaro dire è chiaramente una scelta imposta da Berlusconi. Ma non c'è manco bisogno di imporla. Mantovano è servente agli interessi del Presidente del Consiglio, fa quello che sa essere gradito al Presidente del Consiglio. Io non credo che Berlusconi ha dovuto nemmeno telefonare. È proprio una scelta politica ormai di questo governo di evitare il contrasto alle mafie e soprattutto alle mafie che penetrano nelle istituzioni. Basta vedere anche la legge sulle intercettazioni. È un disegno complessivo. Gli ascoltatori stanno capendo, noi faremo di tutto per farlo capire ancora di più e per contrastare questo disegno che secondo me è eversivo dell'ordinamento democratico del nostro paese. Nuzzi, vorrei replicare su questo. Sì, due cose semplicemente. Credo che i familiari di Spatuzza abbiano rinnegato Spatuzza. Adesso magari qualcuno ci sarà ancora ancora, ma quindi poi c'è un regime particolare di protezione, c'è un regime particolare di protezione per chi non viene respinto dal servizio centrale di protezione, quindi non diventa collaboratore, quindi è inutile fare della demagogia, perché stiamo parlando di una cosa diversa. E mi dispiace che De Magistris consideri spazzatura i suoi ex colleghi, che consideri praticamente dei cretini quei giudici suoi colleghi, però non gli fa comodo ricordarlo, che siedono in questa commissione, Berlusconi chiama, alzano il telefono ai magistrati della commissione centrale, gli ufficiali, i generali, tutti si mettono sull'attenti, signor sì, signor Berlusconi, togliamo, mandiamo Spatuzzi in mezzo alla strada così lo sparano e nessun altro alzerà più la voce contro di lei. Mi sembra veramente una scena più da cartone animato che da paese che è culla del diritto. Però dice neanche c'è bisogno, dice Magistris, di telefonare, cioè un disegno complessivo, il disegno di legge intercettazione. E i magistrati che sono lì sono dei passacarte. Ma com'è che certi magistrati sono dei passacarte mentre altri sono valorosi? Lo decidiamo secondo le scelte politiche che fanno? Qui c'è una legge, scusi, quando staccarono nel 2005 il telefono a Consorte che stava parlando con D'Alema e Fassino e con tutto il Partito Democratico, staccarono la procura di Menano staccò quei telefoni, anche quella fu una scelta politica o fu una scelta inerente a, perché c'erano delle leggi, non si poteva. Però qui Nuzzi, come sulla legge in bilancio, non mettiamo tutto insieme, che sono vicende diverse. Vediamo se ce la facciamo chiudere con Tito da Novara. Buonasera Tito. Buongiorno. Ma per me ormai se faccio la zanzara di sera torna Cruciani che mi aiuti, ormai perdo il concetto, non so più, dormo qui, non so più se è giorno o notte. Dica Tito, buongiorno. Niente, comunque sono Vito. Benissimo, Vito. Niente, volevo dire la mia. Allora, in 20 secondi. Sì, sto signor Spatuzza ha 180 giorni di tempo per dire quello che sa, e sì, questo lo sappiamo. Ma possibile mai che gli viene in mente dopo 2 anni quasi del Presidente del Consiglio? Cioè, qualsiasi pentito in Italia che viene preso, se si vuole dire pentito, sì, dopo 3 giorni, se sa qualcosa della persona più in vista di tutta Italia, penso che lo tiri fuori subito, aspetta 2 anni. E perlomeno, quantomeno dubbio. È questo quindi, che è il punto sul quale si fonda il fatto che Mantovano dice non ha rispettato i tempi, non è stato dato il programma di protezione. Vi devo ringraziare e salutare Luigi De Magistris, Gianluigi Nuzzi. Ci fermiamo qui, Sara Sprafico in redazione con Peter Bescapè, per l'appunto 18.35 se volete la zanzara, e se no domattina alle 7.30 con 24 Mattino. A te Oscar Giannino.